wooden floors, walls and windows. Buonasera a tutti e tutte, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Transizione di Fase. Come sapete, oggi pomeriggio c'è stato questo presidio a Roma in Piazza San Marco, cominciato intorno alle 5:30-6 appunto, in favore della Palestina e dei palestinesi, insomma, che sono rinchiusi nella striscia di Gaza oramai davvero da tempo immemore. Un convoglio, diciamo, di pacifisti doveva portare attraverso le acque turche tutta anche la giurisprudenza turca degli aiuti umanitari in Palestina, e oggi, diciamo, è successo quello che è successo. Avrete visto sicuramente nelle varie testate giornalistiche appunto l'uccisione di diversi militari e quant'altro, appunto ad opera delle truppe israeliane. Adesso qualche altro secondo e dovrebbe partire una corrispondenza in diretta da chi sta di Transizione di Fase lì al presidio, che in realtà è diventato un corteo spontaneo, vista la numerosa partecipazione di persone. Diciamo, per chi è romano o ha idea di Roma, si tratta di uno spazio occupato da Piazza Venezia, Largo Argentina, quindi davvero molto grande. Qualche altro secondo e potrete ascoltare appunto una corrispondenza in diretta da Piazza San Marco. Allora, filmare? Allora, siamo partiti in un corteo spontaneo dal presidio che era previsto. Ricordo i fatti successi oggi, cioè ieri notte, 19 persone sono state uccise dall'esercito israeliano in un raid, in un assalto compiuto contro una delle navi umanitarie, infatti era dal porto dei porti turchi, ma da tutta Europa, 6 imbarcazioni. Una di queste è stata aggredita fisicamente appunto dai militari, come la risposta attiva, 5.000 persone partite in corteo appunto dal presidio che era previsto a Piazza San Marco. In questo momento sta attraversando il centro, siamo di al Pantheon e ancora la gente ancora sta, la testa del corteo sta al Pantheon e la coda sta ancora all'Largo Argentina. Il corteo è davvero bipartisan, ci sta di tutto, ci stanno bambini, ci stanno anziani, ci stanno i centri sociali, ci stanno i movimenti pro Palestina, ci stanno tutta la città, tutta la cittadinanza attiva, quella sinceramente democratica. Gli urli maggiori che si sentono del grido di assassini e sionisti nazisti. In questo momento ancora non sappiamo quando e dove finirà, visto il corteo, visto che non è stato autorizzato e visto che non c'era un percorso previsto. Poi, ci sentiamo allora per altri aggiornamenti. Avete appunto appena ascoltato la corrispondenza da appunto chi era lì al corteo. Ulteriori aggiornamenti li avrete fra poco, sicuramente con altre corrispondenze da lì. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. As tightly as you held on me. breve avremo un'altra corrispondenza da chi è al presidio di oggi pomeriggio in Piazza San Marco a Roma, presidio relativo a tutta quanta quella che è la questione scoppiata durante la notte, diciamo riguardante l'attacco che c'è stata alla flottiglia appunto turca, che portava aiuti umanitari provenienti da tutto quanto il mondo in Palestina. Questa flottiglia è stata attaccata questa notte da appunto dai militari israeliani, che si vantano anche con varie foto dell'accaduto, che foto che appunto potete trovare su tutte quante le maggiori testate giornalistiche nazionali e internazionali. Il numero di morti al momento è almeno 10 e insomma appunto le immagini le potete sicuramente trovare. Fra poco avremo un'altra corrispondenza telefonica, restate in ascolto di Radio Transizione di Fase. Turn into little Bambi. Chest is a petting zoo. Mexican pony, fucked up shoes. I dreamt 1,000 basketball courts. Nothing holier than Thank you. abbiamo un'altra corrispondenza da chi è al presidio appunto a Piazza San Marco Roma. Insomma, fra qualche secondo potrete ascoltare, diciamo, nuovi aggiornamenti su tutta quanta la questione. Eccoci qua, il corteo spontaneo che vi dicevo prima, partito da Piazza San Piazza Venezia, un numero inaspettato, molto, molto, molto grande la partecipazione, 5.000 persone circa, è arrivato ora a Piazza Montecitorio, sotto il Parlamento, e sta invadendo la piazza piano piano. Un ingente numero di forze dell'ordine ha bloccato le strade, sono schierati ovviamente, quindi in assenza di sommossa. Il corteo è molto determinato ma pacifico. E in questo momento ancora non si riesce a vedere la coda. Ricordo a tutti e tutta la motivazione per cui siamo qui in questo momento. Questa notte un convoglio israeliano militare ha attaccato una flotta di aiuti umanitari che si dirigeva verso la striscia di Gaza da 3 anni, colpita da un embargo criminale dello Stato israeliano sullo sionista. 19 sono state le vittime di questo assedio, di questo attacco israeliano. Hanno sparato contro civili disarmati dentro una nave appunto che portava aiuti umanitari e solo aiuti umanitari. La situazione è gravissima, è arrivata in un punto che fino ad ora non ha mai toccato. Anche la protezione internazionale continua, nonostante 19 vittime civili, continua a essere presente e provocatore nei confronti di chi appoggia la Palestina. Il Presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che i provocatori sono stati chi ha portato gli aiuti umanitari. Questa cosa dichiara la sottosegretaria agli interni italiano. Questo è un atto gravissimo, è una situazione davvero complicata a livello internazionale, con tutta la comunità internazionale che appoggia lo Stato sionista, lo Stato nazista di Israele. In questo momento cerchiamo di portare dall'interno del Parlamento questa nostra rabbia, la nostra protesta nei confronti di queste 19 vittime e il nostro appoggio al popolo palestinese. Se ci sono altri aggiornamenti, ci sentiamo dopo. Ciao a tutti. Thank you. abbiamo potuto ascoltare un'ulteriore corrispondenza da chi è a Roma, appunto al presidio in Piazza San Marco. Ricordiamo che il presidio appunto è fatto diciamo riguardo tutta quella che è la questione israeliana e turca e palestinese che si è sviluppata durante questa notte, ma in realtà non solo. Diciamo che stamattina l'esercito israeliano ha attaccato la Freedom Flottiglia, uccidendo al momento, quello che viene detto, è 19 persone, ma diciamo non si sa, insomma il dato è ancora abbastanza una stima, visto che loro stanno per lo più in mezzo al mare al momento. La Freedom Flottiglia è una flotta carica di aiuti umanitari, tra cui cemento e medicine, alimentari e anche case prefabbricate. Sulla nave al momento erano presenti oltre 700 passeggeri di 40 nazionalità diverse, tra cui molte organizzazioni umanitarie, ma non solo. Sulla nave c'erano parlamentari, giornalisti, reporter, medici e organizzazioni non governative come Free Gaza Movement o European Campaign to End the Siege on Gaza, anche se non sono sicuro che si pronunci così. Appunto la Freedom Flottiglia è stata attaccata dalle navi israeliane nella notte, vi sono al momento 19 morti confermati. L'attacco si configura come un atto di pirateria, in quanto le imbarcazioni si trovavano a largo della costa israeliana, in acque internazionali, a circa 75 miglia dalla costa israeliana. L'attacco immotivato ha scatenato anche le reazioni di alcuni stati e persino l'Unione Europea, sta aprendo un'inchiesta in merito. Attualmente l'unica reazione istituzionale italiana è stata di condanna per le numerose morti. Ricordiamo appunto che il dato saliente è il fatto che la nave già da ieri sera era stata circondata mentre stava cercando di raggiungere Gaza via mare, e il paese, diciamo, che chiaramente ha alzato proteste più forti è la Turchia, direttamente coinvolta all'interno della questione, dato sono già avvenute le prime manifestazioni anti-Israele dopo la conferma che almeno 9 persone uccise sono appunto di nazionalità turca. L'attacco si è configurato come un atto di pirateria, e questo è chiaramente la parte ridicola della notizia, in quanto avvenuto in acque internazionali, a oltre 50 miglia dalle acque territoriali israeliane, e quelle delle persone a bordo delle imbarcazioni come un sequestro in acque internazionali. Non si hanno peraltro notizie dai fermati dalle 2 di stanotte. Tutte le navi, eccetto 2, sono state portate nel porto di Ashdod. Ulteriori informazioni le avrete sempre in corrispondenza diretta dal presidio in Piazza San Marco. Nel frattempo vi lasciamo con un altro po' di musica. Buon ascolto a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Transizione di Fase. drink all the time. Cause we're lovers, and that is a fact. Yes, we're lovers, and that is that. Though nothing will keep us together, we could steal time just for one day. We can be heroes forever and ever. What you say? Dolphins can swim. Though nothing, nothing will keep us together, we can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. And you sides in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open. Federico lockers dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall. The black car of the Guardia of the Beer. Spanish bombs on the Costa Rica. I'm dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the gear of Benito. Oh my god, I thought Spanish bombs. Yes, the quiero infinito. Yes, the quiero. Oh my god, I thought Spanish weeks in my disco casino. The freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag. They wore the black one after they died in for fucking Bird Hill. Back from the buses. Those met in the bus. Spanish bombs. Yes, the quiero infinito. Yes, the quiero. Oh my god, I thought Spanish bombs. Yes, the quiero infinito. Yes, the quiero. Oh my god, I thought. The hillsides ring with. Can I hear the echoes from the days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm flying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs. You got the quiero infinito. You got the quiero. Oh my god, I thought Benito, yes, the quiero. Oh my god, I thought. Oh my god, I thought. Oh my god, I thought. Spanish songs in Andalusia, mandolina. Oh my god, I thought. Spanish songs in Granada. Ricordiamo che appunto le due navi che sono state bloccate questa notte fanno parte di un convoglio di 9 battelli provenienti da diversi paesi, non solo europei. Diciamo che il carico che portano è costituito non dal nucleare che ha Israele stesso, ma da generi di prima necessità e non. Una lista compilata secondo le richieste prevenute chiaramente da Gaza e allestito grazie a donazioni provenienti da tutto il mondo. Sulla banchina dove è ormeggiato il cargo attendono di essere stivate appunto tonnellate di materiali edili, tegole, mattoni e un carico di 50 prefabbricati ad uso abitativo, pronti per essere montati. L'edilizia nella striscia soffre della generale penuria che impedisce da un anno la ricostruzione o la riparazione delle 6.400 case danneggiate e distrutte durante l'aggressione dell'inverno 2008-2009. Sono 3.500 le famiglie senza più una casa a fronte di una popolazione in continuo aumento. Le strutture mediche versano nelle medesime condizioni, 15 ospedali su 27 risultano distrutti o gravemente danneggiati, mentre altre 43 strutture sanitarie sono fuori uso. Ad appesantire il lavoro di pronto soccorso si aggiungono le tragiche conseguenze di centinaia di incidenti domestici e incendi connessi alla mancanza di elettricità. E i medicinali per farvi fronte scarseggiano. Una parte del carico della Freedom Flottiglia, che è appunto la nave che al momento in acque internazionali è stata attaccata questa notte, è costituito proprio da farmaci. Annun ci spiega come sia importante verificare con scrupolo questo genere di donazioni. Spesso si tratta di medicinali offerti perché prossimi alla scadenza, che rischiano di trasformarsi in spazzatura, come spesso accade, giacendo per mesi in magazzini e container. Quindi, insomma, molto brevemente era questo, diciamo, il carico che le navi volevano trasportare a Gaza, soprattutto, diciamo, partendo dalla Turchia, ma non solo. Ed è evidentemente questo l'obiettivo che ha Israele, bloccando queste navi, appunto, quelle di continuare, appunto, col massacro del popolo palestinese. Avremo fra poco un'altra corrispondenza da chi è al presidio a Piazza San Marco a Roma. Nel frattempo, buon ascolto e buona continuazione, appunto, con Transizione di Fase. We'll be right back. Mama. E siete collegati sempre su Transizione di Fase, diciamo in diretta estemporanea dal presidio a Piazza San Marco in Roma, che adesso si è spostato sotto Piazza Montecitorio. Ci sono un po' di momenti di tensione, per questo non riusciamo a avere corrispondenze in diretta appunto da chi è lì al presidio, visto che diciamo il presidio, che era a Piazza San Marco, appunto si è spostato diciamo spontaneamente al sotto diciamo a Piazza Montecitorio, e quindi da presidio è diventato per l'appunto un corteo. Vi insomma aggiorniamo brevemente su quella che è la questione avvenuta stanotte tra Israele, Turchia e, come al solito, di mezzo ci va la Palestina. La Freedom Flotilla, che è una delle navi appunto turche che stavano portando dei beni di prima necessità alla striscia di Gaza, è stata attaccata dalle navi israeliane nella notte. Vi sono 19 morti confermati. L'attacco si configura come un atto di pirateria, in quanto le imbarcazioni si trovavano a largo della costa israeliana, in acque internazionali, a circa 75 miglia dalla costa israeliana. L'attacco immotivato ha scatenato anche la reazione di alcuni stati, e persino l'Unione Europea sta aprendo un'inchiesta in merito. Attualmente l'unica reazione istituzionale italiana è stata di condanna per le numerose morti. Si sono così rese effettive, nel peggiore dei modi, le minacce israeliane allo stop. Nonostante la Turchia e altri paesi abbiano invitato a non intercettare o ostacolare le imbarcazioni su cui viaggiano persone disarmate che portano aiuti per la striscia di Gaza, sulla quale peraltro continuano a battersi gli attacchi israeliani, negli ultimi giorni ci sono stati dei raid aerei. Sono già in corso numerosi presidi presso i consolati israeliani di città estere, come questo qui appunto a Roma, che vi stiamo trasmettendo in diretta con varie corrispondenze telefoniche appunto da chi sta lì al presidio. Fra qualche minuto dovremmo avere qualche altro aggiornamento appunto in diretta telefonica. Nel frattempo vi invitiamo a restare qui connessi con noi su Transizione di Fase, e un buon ascolto. Thank you. Thank you. e piano piano iniziano ad arrivare tutte quelle che sono le agenzie, naturalmente sempre da media mainstream, quindi da prendere anche con le pinze, questa è abbastanza recente. Esercito israeliano assassino, Israele fuori dall'ONU, recitano questo gli striscioni esposti in Piazza San Marco a Roma, dove centinaia di persone stanno manifestando contro l'attacco israeliano verso la flottiglia, scusatemi, Frigasa, che si è concluso con l'uccisione di numerosi attivisti. La piazza romana è piena di bandiere, da quelle palestinesi a quelle di Sinistra Ecologia e Libertà, Ecobas, CGIL, Federazione Sinistra, eccetera, eccetera, tutta questa gente che si sveglia sempre 10 minuti prima. Stanotte questa strage ha aperto gli occhi al mondo su qual è il vero volto oppressivo e aggressivo dello Stato palestinese, spiega al megafono il consigliere regionale di eccetera eccetera. Ci vogliono atti concreti affinché Israele rispetti quelle risoluzioni ONU che dal 48 in poi non sono mai state rispettate. Quella di Israele è stata una strage che oltre a colpire il movimento pacifista, aggiunge XXY del coordinamento regionale di XXY, manda anche un messaggio in codice alla politica internazionale, su cui bisogna riflettere con molta attenzione. In piazza diversi attivisti annunciano in questi giorni la prosecuzione delle manifestazioni di solidarietà al popolo palestinese. Questa è una delle ultime agenzie appena uscite, siete naturalmente collegati con Radio Transizione di Fase. Stiamo aspettando, diciamo, ulteriori aggiornamenti che arrivano dal presidio di Piazza San Marco a Roma, dove abbiamo un paio di persone che ci stanno contattando. Nel frattempo, appunto, vi invitiamo a restare collegati su questo canale, su Transizione di Fase. A breve avremo altri aggiornamenti. Buon ascolto. Continuano a uscire fuori ANSA, appunto, una dietro l'altra. Questa qua, appunto, notizie mainstream, un poco prese da tutti quanti i giornali principali. L'assalto della Marina israeliana, il convoglio di navi che portavano passeggeri e aiuti umanitari a Gaza, con la morte di parecchie persone, tra cui diversi turchi, ha fatto ripiombare nella crisi più profonda i rapporti tra Turchia e Israele, già raffreddatisi dal gennaio dell'anno scorso. Ankara non ha esitato un momento e, in successione, ha richiamato in patria il proprio ambasciatore a Tel Aviv, Oguz Çelikol, spero che sia letto adeguatamente, ma non credo. Ha annullato 3 manovre militari in programma con lo Stato ebraico ed ha chiesto la convocazione straordinaria del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che si riunirà in serata al Palazzo di Vetro a New York. E tanto per andare sul sicuro, ha cancellato pure una partita di calcio tra la nazionale under 18 turca e quella israeliana. La crisi odierna interviene in un momento già di bassa nei rapporti tra i due paesi, che, nonostante siano alleati strategici e militari dal 96, negli ultimi 12 mesi hanno registrato una serie di strappi politico-diplomatici a seguito dell'offensiva militare israeliana, piombo fuso, contro il movimento integralista palestinese Hamas nella striscia di Gaza tra il dicembre del 2008 e il gennaio 2009. Dal canto suo, il premier turco Erdogan, sulla via del ritorno in patria dal Sud America, dove stava compiendo una visita ufficiale in vari paesi, non ha esitato a definire l'accaduto come un atto di terrorismo di Stato. Ora, chiaramente, cioè, quando vengono colpite le navi turche è terrorismo di Stato, quando invece uno fa un'azione, un'offensiva militare chiamata piombo fuso, in quel caso comunque tutti quanti fanno qualche strappo, ritirano per qualche minuto l'ambasciatore da dove è, però chiaramente non si arriva a questi livelli e appunto bisogna arrivare a avere numerosi morti come al solito prima che un poco la situazione in Palestina venga fuori e venga detto a gran voce che quello che avviene è davvero un eccidio, quello che avviene è davvero la volontà di distruggere un popolo che aveva tutto il diritto di stare nel posto dove adesso c'è lo Stato di Israele. Continuiamo con la nostra musica e aspettiamo sempre che arrivi qualche altra corrispondenza telefonica dal presidio di Piazza San Marco a Roma. Rimanete tutti e tutti all'ascolto su Transizione di Fase. Loro fanno promesse che non vogliono mantenere, per saziare la loro fame e la loro brama di potere. Sono uomini piccoli piccoli ma si credono giganti, megalomani ridicoli a tratti anche inquietanti. Sono forti coi deboli ma deboli coi forti, pronti a uccidere per calcolo se ne fottono dei morti. Sono al comando di mute di mastini che sciamano per le strade con istinto d'assassini. Sono iene rognose affamate di carogne, pante cane appena uscite dalle fogne. Allora boom boom, la rabbia fanta già, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom boom, la rabbia fanta già, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Succhiano il sangue a chi lavora, fanno affari con chi rascano il fondo fino a quando ogni risorsa non è distrutta, danno la mancia a chi ubbidisce, bastonati a chi protesta, ordini precisi di spaccarti in due la testa. Guazzano nell'oro accumulato con gli inganni, immuni ad ogni legge perché sono dei tiranni, amici della mafia e della criminalità, sono la feccia dell'umanità. E allora boom boom, la rabbia vampa già, te lo dico boom boom, e la fiamma sale. E ancora boom, lo ripeto boom boom, e il fuoco sale. Nostra è la fatica,

caliban. Tout équilibre fout le camp, la rage. Car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. Car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le boucle? C'est tout ce qui nous laisse, façon, tout ce qui nous reste. Car combien des nôtres finiront par retourner leurs fesses? La rage de vivre et de vivre l'instant présent. De choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. Car c'est la merde et que ce monde y adhère. Parce que tout leur champ OGM stérilise la terre. La rage pour qu'un jour l'engrenage soit brisé. La rage car trop lisse, vérité sur leur écran télévisé. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Nous nourrissent de forêts pour placer leur rempart. La rage car ce monde ne nous correspond pas. Où Babylone s'engraisse pendant qu'on crève en bas. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus se taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur parce qu'on a la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage d'y croire et faire en sorte que ça bouge. La rage d'un Chirac, d'un Sharon, d'un Tony Blair ou d'un Bush. La rage car ce monde voit rouge mais de cris aille s'entourer. Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule. La rage car c'est le pire que nous frôlons. La rage car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de colon. La rage car le mal tape sans cesse trop. Et que ne sont plus mises au bout du jour tant de grands savoirs ancestraux. La rage, trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage car ils ne veulent pas que ça change. Ils préfèrent garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du peuple, l'ébullition. La rage, ouais la rage ou l'essence de la révolution. La rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. La rage. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur parce qu'on a la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Parce qu'on a la rage. On restera debout quoi qu'il arrive. La rage. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Parce qu'on a la rage. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage. Le cœur parce qu'on a la rage. Pour quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Anticapitaliste, altermondialiste, ou toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain, à la veille d'une révolution. Arrête spirituel, du peuple, rage du peuple. Arabie, Arabie, Pueblo. Parce qu'on a la rage, elle qui fera trembler tes normes. Parce qu'on a la rage, elle crie la populace et la rage est énorme. E mentre non ci arrivano altre notizie dal presidio, la politica insomma italiana si conferma nella sua psicosi più assoluta. Un'altra notizia sempre mainstream, quindi da prendere insomma non con le pinze, perché poi il giorno dopo le versioni qui cambiano. Comunque Frattini, Israele deve dare spiegazioni, mentre Mantica del PDL, sempre i pacifisti sono dei provocatori ed è polemica. Israele deve dare spiegazioni, così esordisce il ministro degli esteri Franco Frattini, che definisce grave e inaccettabile l'assalto alla flottiglia pacifista messo in atto dall'esercito israeliano, un attacco violento che ha provocato almeno 19 morti, sul quale il titolare della Farnesina chiede un'inchiesta che accerti la verità. Vigilando, sottolinea il ministro per le politiche europee Andrea Ronchi, affinché non si verifichino strumentalizzazioni anti-israeliane. Non riesco a leggerlo proprio perché di strumentalizzazioni, quando hanno appena ammesso di avere sparato sulla nave, perché diciamo comandata da uno dei più grandi antisionisti, non so come si chiama, non me lo ricordo più, però insomma da verificare mi pare ci sia abbastanza poco, è stato chiaramente un gesto voluto. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, esprime sgomento e allarme. Giorgio Napolitano, per chi fosse l'ascolto, quello che firma tutto quello che il governo italiano gli dice di firmare, praticamente compreso quest'ultimo decreto, che non si capisce che è. E quindi dice che le ragioni del dialogo prevalgano sulla violenza e che si scongiuri così un'ancora più grave spirale di tensioni e di scontri che avrebbe conseguenze esistenziali, immagino, sul travagliato e fragile processo di pace in Medio Oriente. La strage israeliana provoca una condanna unanime delle forze d'opposizione. L'assalto alle navi delle ONG è un fatto di assoluta gravità. Israele deve rispondere alla comunità internazionale di quello che è successo, dice il segretario del Partito Democratico. Ancora più duri toni usati da Paolo Ferrero, segretario del PDC, eccetera, eccetera, che parla di vergognoso assassinio. per il governatore della Puglia si è trattato di un'aggressione inedita, che non ci pare proprio inedita, visto che vabbè, ogni giorno vengono bombardati sulla striscia di Gaza, di un atto di barbarie senza precedenti, anche qui un punto di domanda grande quanto la Puglia, che dovrebbe determinare indignazione e condanna unanime da parte di tutto il mondo civile. È in atto una vera e propria guerra. Per chi avesse votato Lichi Vendola alle ultime elezioni, si ricordasse che questa persona, dopo che ha ucciso 19 persone, di cui buona parte turchi su una nave, si dimentica che ogni giorno a Gaza muoiono persone per ferite da armi da fuoco, per fame, sete, eccetera, eccetera. Piero Fassino del Partito Democratico parla di un attacco ingiustificato che rischia di innescare una nuova spirale di violenza e sofferenza, mentre l'IDV chiede a Frattini di riferire nella seduta della Commissione Esteri al Senato, convocata questo pomeriggio. Indignata anche la tavola della pace, che chiede all'Italia di condannare a chiare lettere questo atto criminale. Insomma, quindi, Frattini, Israele deve dare spiegazioni, Mantica, pacifisti provocatori, Napolitano, il dialogo prevalga sulla violenza, Ronchi frena, no alla criminalizzazione, Bersani servono risposte, Ferrero è un assassino. Insomma, in questo paese, come al solito, si dice di tutto e anche di più. Mentre aspettiamo ulteriori informazioni appunto da chi è al presidio al momento a Piazza San Marco a Roma, un altro po' di musica su Radio Transizione di Fase, buon ascolto. Sharpen the heel of your E volge al termine il presidio appunto in Piazza San Marco a Roma. Le ultime notizie sono appunto non troppo positive, in quanto oltre a essersi chiaramente creata un po' di tensione durante il corteo all'altezza, diciamo, del ghetto ebraico, appunto dove si è schierata, che è dovuta schierare la polizia, visto che sono partiti urla e quant'altro da assassini, mentre appunto da Piazza dell'Enciclopedia Italiana, dove inizia la zona del ghetto ebraico romano, è stato risposto Israele. Israele, appunto, le notizie non sono per nulla positive, proprio perché, diciamo, uno dei freelance che è al momento sulla nave, che appunto è stata bloccata questa notte, si chiama Manolo Luppichini, freelance romano che si trovava su una delle navi Freedom Flotilla, scusatemi. Appunto, a quanto pare è stato arrestato insieme a tutti quanti gli altri presenti sull'imbarcazione. Chiaramente non si conosce ancora il motivo dell'arresto, e neanche se in realtà questo arresto è avvenuto, è preventivo, è una forma di fermo, insomma, per cercare di capire com'è la situazione al momento. In ogni caso, quello che abbiamo, appunto, l'unica notizia che abbiamo è appunto che hanno arrestato tutti quelli dell'imbarcazione, compresi appunto gli italiani. Sperando che, insomma, la situazione si placi, a quanto pare il presidio si bloccherà qui, in quanto è stata ricevuta una delegazione da appunto a Montecitorio, è stata ricevuta da Gianni Letta, e quindi, insomma, inizieranno sicuramente trattative a livello internazionale per lo sblocco e lo sblocco di questi fermi. Adesso vi lascio un altro poco di musica, e come di consueto il lunedì sera dalle 21 alle 23 ci sarà la puntata di Pink Moon, stasera con argomento in particolare trattato Elio Storetese. Vi auguriamo presente in studio anche un Elio, che poi avrete modo di conoscere meglio pure voi. In ogni caso, a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Transizione di Fase, un buon ascolto e una buona continuazione con i nostri programmi. Ciao a tutti e a tutte. Thank you. put some mountains here. Otherwise, what are the characters going to fall off of? And what about stairs? Yodelay. Everywhere he goes, he stays a stranger.